Maria è attaccato a 24 voci e alla 48. Dritto. Cioè, va bene, va bene. Dimmi, oggi mi sto usando un po' a gigetto, che sono da molto che non lo usavo più. Io ho usato tutti e due, quelli adesso sono col 4,40, più tardi essendo col 5,50. Cioè, le faccio girare anche io, ma alla fin fine a cosa servono, ho capito io. Boh, per avere, poi rimangono sempre fermi. E quando ne hai uno, 27 va più che bene. Quando ne hai tanti, devi commutare, devi fare, è un casino. Con la sua parte, quando te li guardi, ti illuminati, sono bellissimi. Signore, che tu da lui, no? Che pare una sala di controllo, dimmi, Gary. Comunque, questa scarpetta, non ho avvertito qua gli spinotti. Ma quale, Gary, positivo o negativo? No, le uscite antenna, l'uscita del coso, del baracchino, le ho avvertite. Ma a Pennarello li hanno fatti? Quitto. A Pennarello li hanno scritti? Scritto a Pennarello, però in effetti è anche giusto come dicitura del coso, della fabbrica. Però guardandolo bene è possibile invertire gli spinotti, togliendo le due viti e invertendoli, capito? E allora tu cancellare il collaro, poi scrivilo. Scrivi il bene prima se c'è la casina. Mettiti X e X dove deve andare, così siamo sicuri. Perché se lo prendo io già ci vedo poco. Tanto in bagno mi copio la radio. Allora, ma guarda che alcuni lineari ce l'hanno al contrario, Io ho avuto che ce l'avevano al contrario qua. Sì, ma c'è scritto antenna e trasmettitore, capito? Però sai cos'è? Quello che non mi garba molto è gli spinotti. Possono aver investito gli spinotti qui. Ma spinotti di cosa, Gavi? Fammi capire. Dell'antenna in uscita o di che cosa? O gli spinotti di alimentazione? No, non di alimentazione, se no non avrebbe funzionato. Proprio l'uscita antenna e TX, trasmissione. Dimmi, Massimiliano. E così, in poche parole, ne abbiamo confrontato un altro. L'ho scritto io quello, Ant TX, capito, a Pennarello. E poi anche dove c'è scritto l'altro, dove c'è solo le freccette, antenna e trasmissione, quello l'ho attaccato io. L'unica cosa che potresti fare, sai cosa è? Perché non mi ricordavo più quando l'ho soffiato, è uscita la tinta, capito? Quindi l'ho riverniciato e non mi ricordavo più come volevano attaccarti. Allora tu adesso cosa puoi fare, l'unica cosa? Lasciare tutto com'è e invertire gli spinotti. Eh sì, lo so, ma devo allungare i cavi, Ecco qua il casino, che è successo, dai. Così lasci tutto normale. Oppure l'unica cosa che fai, cancelli tutto e giri quella scritta antenna e il TX se si apposta. Ok, riprendete voi. No, quella cosa che bisogna fare è cambiare gli spinotti, invertirli, allungare il cavo e si fa prima. E lasciare queste diciture. Così. Vabbè, tu fai che ti dà dei nomi riportati a me, quando me lo vuoi a me si aiuto. Ma è strano, perché quando li inverti io per errore una volta l'ho invertito e fa tru, così si interviene che attacca e stacca. Bravo, facciamo così in effetti. Perché lei attaccava, dava protezione, capito? E allora è così, sono invertiti. Quando fanno così è perché sono invertiti. Ti parlavano bene e poi ho detto, ma mi sembra strano, allora ho preso, ho controllato bene il circuito, ecco, allora invertiti, ha funzionato subito. Dici Gavri, sicuro che quello lì si è fatto di René perché sono invertiti i fili. Vabbè, comunque c'è cioè, una cosa fattibile, si può fare. Lo facciamo domani, dai. Domani mattina, adesso spengo tutto e vado via. ecco, allora. Va bene, domani mattina tanto non costa nulla. C'è un altro cavo, lo metto anche più grosso. E questo che c'è è fine. Mettere i cavi giusti, i cavi grossi. È possibile mettere via esterno, capì? Come è fatto al 750? Dove non posso, ce l'ho uno. Questo ci vuole un fusibile almeno da 25 ampere. 25 ampere, quelli a spinetta mettile, con la scatolettina, come questo, come il B750, che è meglio, più protetto dalla radio. Già ce l'ha all'interno, ma è meglio metterlo anche sul cavo di alimentazione, è più sicuro, capito? E così almeno se parte lo puoi cambiare dall'esterno anziché all'interno. Sì, conviene fare così, anche quello che c'ho io è così. Anche quello che c'è è così, ma anche il PS50 della Chemod io l'ho fatto così, interno però, non si vede, però ho eliminato quello piccolino che c'era dietro a Danino, che era da 25 ampere, però piccolino, ho preso i cavi, li ho messi più grossi, li ho messo un portafusibile interno, saldato su una piastrina con quelli a spinetta da 25 ampere che sono più... Vanno molto meglio, dai. Va bene, dai. Un saluto a tutti. E ci sentiamo domani, tutto al più. Buon proseguimento di serata. Ciao Claudio, ciao. Ciao Gianni. E chi ci sta ascoltando? Ciao ciao. Ciao Gabri, ci sentiamo, buon lavoro. Ciao Gabri, ci sentiamo, dai. Fammi sapere, dove ti chiamo domani. Avanti già. Ciao capi, buon lavoro, ci sentiamo. Andava. Massimiliano, sì. Massimiliano deve essere, sta facendo qualche cosa. Ripetete la Claudia. Stamattina, sono di mattina lì. Vedi che stamattina l'ho fatto già. Sono andato, ho lasciato il mio collega stamattina a Nurbi a tagliare l'erba. Quando ho finito il giro sono passato a prendere la bugiarda e ho detto ma no, perché non l'hai finito? E tu sei chiamato invece spigliatore. Vabbè, pazienza. Controllato. Ma aggiunto che cosa hai usato? La benzina non hai portato tu, la benzina che ti ho portato io. E l'olio che ti ho portato messo di là. No, allora, hai ingrippato. Complimenti. Ho trattato questa benzina, vai frutta, senza frutta. Io l'ho portato la benzina e l'olio. Quindi quando tu hai uno le porti la benzina e l'olio che deve fare, si deve fare la miscela e mettere in cespedina la porta la benzina. Capito? E niente, quindi ho accompagnato lui a casa, poi mi sono caricato di cespugliato le macchine, ho portato a sorso in officina, mi sono preso l'altro e quindi sono arrivato a casa alle 3:30. Sono a Mazzano, poi vai, scusa, io non so cosa devi fare, complice. Che poi è anche cannoso perché se piove non può fare niente. Vabbè, già 3-4 lì va la miscela, mi pare. Però la porta benzina è buca, sicuramente. Perché l'olio era ancora chiuso, figurati. Tu ricordi prima quando la facevano al rifornitore che giravano la mano proprio blu blu blu blu. Ehi, non ne avevo voglia di farlo, faccio anche il misurino, la faccio sempre bene, la faccio anche a 4 a 5 a volte, perché abbiamo un sacco di cespugliatori nuovi. E adesso è stato chiamato, dovevamo prima portarlo in officina da noi, vediamo cos'è, se no lo portiamo a Mariani. Speriamo che riescano a farlo loro, perché se è ingrippato si apre, le fasce nuove, le cose. E risparmio, Mariani vuole un sacco di soldi, capite? Quello è specialista. Lo so, ne abbiamo comprati da loro, infatti. Ne ho preso 15 l'anno scorso, a 420 euro l'uno, batteo gong. Cane morto, ci ho fatto una lira di sconto, nulla, niente. La fattura rimessa diretta a 30 giorni, non 30, 60, 90, rimessa diretta a 30 giorni. A 30 giorni bonifico in banca, se no un casino. Adesso sono tutti i servizi perché non paga nessuno e non ne fanno più di questi pagamenti di 30-60, sa. 90 pure facevo, 30-60 90, adesso non la farò più, non si fidano più, hanno paura sempre che la gente non paghi e i tempi sono qui, di, non è che ti puoi fidare più di tanto. E vabbè, ma sono più di 4.000 euro, cioè, erano 10 a 400 euro l'uno, sono 4.000. Più 5, fate il conto. Umbrella, ho voluto la rimessa diretta a 30 giorni, data fattura. E invece io quando sono andato a comprare la batteria ho risparmiato un bel per la panda, poi glielo data, quando l'ho versata gli ho dato la batteria nuova, ci aveva pochi mesi di vita, 2 mesi mi pare. E l'ho presa lì perché sono andato all'elettrato, voleva 90 euro, ho detto ma stiamo scherzando, no, no, lasciaci questa vecchia, poi ci penso. Sono andato lì, certo, con 40 euro ho preso la batteria. E io ho detto che ho messo in moto la smart, quella grigia e nera, ho fatto la batteria, ho fatto la smart lì a via Pascoli, ho fatto caricare, ho detto ma la buona, e sembra che tenga. L'ho piazzata, messo in moto, tutto a posto. La mattina mi affidesco, messo uno dietro l'altro, le macchine no, all'interno del mio posto auto ci stanno, quindi le metto una dietro l'altra. Ma tu qua prendo la tua, che hai dietro, come fai? Così la fai camminare, usala, infatti io la userò una volta alla settimana. Mi hanno dato in moto la pacchia. Oggi sono rientrato, sono provato io, completamente morto. Adesso domani mattina a cosa? Al consorzio agrario del Veneto, ho preso la misura, gli ampere, non è grande questa da 60 ampere, non ho capito perché sia così, il motorino va niente, però evidentemente servono quegli ampere, e la compro ma la pago 35 euro, già, non di più. Ma poi la consorzio? La consorzio agraria non ci vendono le batterie per i trattori, per le macchine agricole, per tutto, capito? E le farò pagare di meno, così? Poi compriamo un sacco di roba noi, cordicella per il vecespugliatore, i mandrini quelli per il vecespugliatore, ne compro 2-3 alla settimana, perché li rompono, li perdono, a chi ne esce il bullone, compro dischi per mora, compro tutto lì, capito? E quindi ci fanno un buono sconto. E gli ho detto, stamattina solo mi ha detto che non ce l'aveva la 60 perché me la porterà domani mattina dall'altro deposito. E mi ha detto sulle 30-35 euro, grazie, non ci sono problemi. C'è poco, poco. Va bene, così va. Ma io quando io ho preso era Fiat, non era nemmeno una batteria di cavolo, era una Fiat. Ma questa è Varta, sono concessionario di Varta per tutta la Sardegna. Varta, Fiat, scelte batterie buone. Ma non puoi pagare una batteria per una Panda 90 euro, io è esagerato. No, non sto uscendo, guardi il tuo vicino di non guarda il tuo volante sul chiuso. Non ti avvicinare al tuo microfono, parla così lontano, io sto parlando a 50 centimetri. È lo stesso microfono, guarda, perché intanto ho capito che in quella radio qualsiasi microfono ci metti e va bene. C'è Gianni, Domenico, Tardametto, io li prendi. E ciao Gianni, ciao Domenico. Ho vestito anche a te là. E vabbè, tutto stai a farsi l'abitudine. Non devi né gridare né avvicinarti troppo, perché se strappa. Ma questo qui me lo dice del 440, Claudio. Io il 140, come il 440 strappare non l'ho mai sentito. No, ma non strappa, già. Diventa così, mi guarda. Diventa così, mi guarda. La sentiamo, ma la sentiamo tutto quanto così. Perché si avvicina troppo. Siccome io ho detto, lui è abituato all'altro, all'MC50, quello basta, ti rilassi, tu ti siedi nella sedia tranquillamente, parli senza gridare, e lui è un bijou. Ma ti dice il bisogno, no? No, 10 minuti fa. Ammazza, che te ne vuoi, Che non ci ho coricato tardi, però, non ci ho coricato, erano i 4 minuti. Cazzo, ma sono i nuovi macchinetti, dico, ma... Sì, vabbè, facciamo lo strappo, vabbè, le luci. Che stai dicendo? Invece di pigliarmi da quell'animale contro il bambino, guarda mai di pigliarmi da... Ma ti non c'è sanna, che hanno anche la vendita dei pezzi di ricavo dei cespugliatori di... dell'arma che vengono loro. No, non lo posso decidere, io non è che posso decidere. Io ho fatto la relazione. Stamattina ho detto, invece spugliato, l'ho chiamato perché voglio tutto scritto. Come è successo, come non è successo. E l'ho portato a Sorso, c'è l'officina nostra, dove ci sono tutti i mezzi, e quindi adesso lo controllo lì, ma sicuramente non devo bene bene, quindi non so se mi ricordo di portarlo a Mariani o a Pinuccio Sanno, può darsi anche che l'altro responsabile abbia tali punti decide di portarlo a Pinuccio Sanno. No, non ho mai capito, lo so, non avete comprato, noi ci compriamo la quella annuale, se no non mi fanno prendere quella motosega. Mi volevo far pagare il carburatore nuovo e invece ho chiamato io al centro assistenza e me l'hanno fatto passare in garanzia perché non era colpa mia. E poi l'ho ricomprata per il punto invece ho comprato da questo bambino. Ma lì è a preventivi, io non so se non ci sono fatto preventivo. Evidentemente lui ha fatto preventivo e quelli dell'Alpine, mi pare si chiama, no, dell'Alpine, quelli arancioni. Erano 470 euro l'uno e ci ha lasciati 400 euro, quindi ha fatto 70 euro a invece spugliatore, evidentemente la società gli è convenuto e li ha presi da lui. Io non avrei preso un chiodo perché mi sta sulle balle. E io lo so, figlia. Un attimo di bianco, Clara. Ehi. Quando guardavo il TV, erano che seguo con Dora e gli erano meglio luci. E lo avevo infatti. Sì, già, va bene. Un attimo di bianco, Gianni ha detto. Domenico, che sei? Parla a me. Avanti. Ciao, B2, poco tocco, sei sempre più basso, sì. Lo senti, Mauro, B2? No, non lo sento. C'è scritto in basso sotto lo Smith, c'hai tanti pulsantini, no? Dove c'è approach, LC, power, guarda c'è attenuatore, dove c'è scritto ADT con due T, sei in dentro o in fuori? In fuori. Cazzo di oro, mi fa una. Ma i segnali come li stai ricevendo bene? Vabbè, il tuo è così 9.20. E anche tu sei 9.20. Non lo so, bisogna che vediamo lo sguardo, quando vengo lì con calma, lo apriamo e vediamo lo sguardo, vedere. Non vorrei che sia un pochino chiuso di ricezione con la radio, ma... No, non lo so, io non l'ho toccato, come me l'ha messa tu al micro? Io non l'ho toccato assolutamente. Io non ho toccato, è una regolazione che si fa interna, Mauro, e il guerrino quanto ce l'hai? Perugia, ma c'è poco che comunque sarà anche molto di più, ecco. E adesso quanto ce l'hai qua su 10? Questo non è tanto. Io ce l'ho a 2, tenendo conto la mia posizione, l'antenna diversa dalla tua, già ci siamo, non c'è problema. B2, lo senti a Mauro? Ti ho sentito quando hai baciato, poi non ti sento, non ti sento più. Gianni, ci sei? Doppio? No, io non lo sento più. Allora non fai passare il supercicato per la stessa radio, Mauro. Ah, non c'è voluto? No, nulla. Niente, tutta la sera a casa. Non mi sono manco coricato, cazzo, sono uscito alle 3:30, niente, mi sono lavorato, mi giro sbagliato dal divano, poi ho sentito gente in radio e sono qua tutta la sera, me mi ha chiamato e niente, e ne c'è venuto. Beh, è successo qualcosa, non ha caricato per sassare. Grazie, figlia, sì. Sì, perché sono andato a, vabbè, c'è una moto, non mette molto, sono andato a chiedere. La Repau, come presumivo, come me l'avevo immaginato, lo stato del motore di avviamento, 25 euro da lui. Se mi compri la truffata, tutto loco, per la niente, 40 euro. Ah, ma io sono mezzo pazzo. Quello io ho comprato l'Ornet, l'ho tenuto 5 mesi, sono andato a arrivare a Versaglio, me ne ha scalato 1000 euro. Se ti ha detto mi chiamano sbruffando. Ma non è bisogno più di nada me. Non è bisogno più di nada me, capito? Certo, 2 anni, 3 ne ho preso molto, 3. Non è bisogno più di nada. Questa volta a Olbia, se decido di comprarmi la moto vado a Olbia. E se no vado fuori. Vado fuori, sto decidendo se comprarmi. Se cambiare macchina quest'anno vado fuori in continente, parto in aereo e me ne torno in macchina. E come ho fatto io? E cioè sono tutti pazzi qua, capite? Ma tu guarda cosa sono le moto, c'è anche Alghero. C'è quello da lontano anche. Ma Alghero lo fa mio cugino, a Pietraia. E da lui c'è luce. Via. E però c'è l'entrata, perché mi sembra che lui non quando mi c'era l'entrata c'è il valacoso, la concessionaria Yamaha. E siccome c'era anche truffato Yamaha e Honda. Vai, e l'altra volta così mi ha detto, vieni tra, sì, aspetta, allora nei bulli. E mio cugino, quello è Angelo Marti. Infatti, se decido di prendere la moto vado proprio da lui, senza andare assai lontano. Ha detto proprio bene. Quello è il figlio fratello del Bob. Avevo preso lo scooter per Ilaria io quando aveva 14 anni. Avevo pagato a prezzo di costo, manco l'immatricolazione mi aveva fatto pagare. C'ho ancora la targa, infatti. Anzi, devo andare a prendere e tirarmi la targa che c'era Luca. Va bene. Che ore sono? 9:15. Non so perché cosa vi dico. Che io vado a mangiare. Io ti seguo e ci sentiamo domani, dai, a domani, ciao, buona cena, buonanotte e buon lavoro per domani mattina. Sentiamoci questi giorni, ci vediamo. E dite a Francesco non toccare il microfono e aspetto le mani. No, lo sì, così, che all'inizio ci organizziamo per fare quel lavoro all'antenna. La picca, quello che mi stavi dicendo tu, che non stavi dicendo si poteva modificare anche per farla funzionare molto in banda. Perché se saliamo, se noi poi facciamo un lavoro unico, senza stare a uccidere il monte. Io non ho problemi con i radiali, sono già pronto. Il problema è che ci manca il mozzo, e quello ci dovrebbe fare Fabrizio al tornio, capito? Quindi io Fabrizio questi giorni l'ho sentito, lo so che è incasinato per lavoro, con turni, assemblee, vale vari. Quindi appena si libera Fabrizio, mi faccio fare quel pezzo al torneo, figlia. No, bisogna avere, se ce la faccio il soldo domani sera, ti porto il microfono del tuo letto e te lo dai. Quindi quando si libera deve riuscire a regolarlo, ma non regolano l'orettore, se fa fretta. Tu a me mi dici qual è il prima da regolare, io cioè cacciavitti, quelli che servono per fare quel tipo di lavoro, cioè tutta la serie, la più piccola la più grande, intanto l'attacco è uguale alla RAM 48, la RAM 48 è qua, normale, funzionando normale, dovrebbe funzionare bene con quel microfono, lo tagliamo direttamente qua e poi ti zio bussi. E facciamo così, via, non c'è problema, va bene, ok, ci sentiamo domani, là. Se no, senta la RAM 48, ma lo troviamo direttamente sulla RAM 48 mia. Ma c'è l'attacco anche della KB23, quindi possiamo provarla anche sulla KB23. Però parlo tu domani. Già sono a casa, io non c'è problema. Capite? E lo tagliamo direttamente qua, lo proviamo, così ti tiro butti subito. E io andavo là, io chiudo e me ne vado a mangiare là. Okay. E domani, ci vediamo domani, ci sentiamo per domani sera là. E io Mauro, ciao. Alle prossime. B2, adesso ti ho sentito. B2. Beh. Doppio. Io sono a mangiare. Giurut. Gianni. Gianni. Gianni. A mangiare sto andando, ci sentiamo dopo, dai. Obbligatoria, c'era tutta la fila in fila, a uno li controllavo. 9:28, mi ha detto mio collega 10, che 9:28 12 patenti il giorno. Il sindaco ha fatto un esposto alla sia ai carabinieri che alla stradale, capito? Perché in una manifestazione del genere, in un contesto del genere, se tu ti comporti in quella maniera la gente non ci va più. Cioè non è che io posso andare a fare un divertimento e mi devo mettere la patente per un bicchiere di vino. Claudio, non è per un bicchiere di vino, perché io ne ho bevuto due di bicchieri. Li ho bevuti all'inizio, mi ho mangiato un uovo sodo e poi mi ho bevuto due bicchieri di vino, li ho gustati e poi ho mangiato, non ho più bevuto perché sapevo che dovevo guidare. Prima di partire mi sono fatto la prova etilica, c'era la macchina dei carabinieri su che faceva la prova etilica gratis. Se tu ti accorgi che hai bevuto ti dicono guardi, non può guidare per il momento, stia ancora un po', mangi, resti un altro po' fermo perché ancora non può guidare. Te lo dico lo stesso, a me me lo dico, vada tranquillo, quanti ne ha bevuti io due, vede, questa è la prova di chi beve, che non è vero che chi beve due bicchieri sale il tasso alcolico. Il tasso alcolico comincia a salire quando ne bevi 3, 4, 5, e allora sì. No, già, quello poco c'entra, è una questione anche di costituzione fisica, perché riparte sicuramente tu rispetto a una persona che è alta 1,5 m, che ha più sangue, quindi due bicchieri a uno di 1,5 m lo incidono, a te non ti coricano il pelo. E poi c'è anche quello, però io ho bevuto con intelligenza, anche perché so che quando guido non devo bere, punto. Mi sono mangiato un uovo sodo, dico la verità, per farmi il fondo, come ti fate gli imbriaconi, e poi ho bevuto due bicchieri di birra, di vino. Poi ho mangiato salsicce, tutto quello che c'era da mangiare. Naturalmente ho dato la mia quota per mangiare, per bere. Bevuto non ho bevuto, ma già ho mangiato abbastanza. Anch'io, a un certo punto però mi hanno controllato, cioè mi hanno guardato un attimo e mi hanno detto di saltare la fila. Tanto? Sì, già. A 29 cosa hai detto? Imbriaga avanti. Cosa vuol dire? Mi sono te l'ha detto cosa ha fatto. La birra. Mi ha rubato la birra addosso. A chi? Antonio, è caduta. A lui? Sì, no, vabbè, nella mia postazione. Ma l'hai fatto apposta? No. Io non l'ho fatto apposta. Ubriaca avanti vuol dire ubriaca a tavolo, mi vanno a rovesciare i bicchieri sul tavolo. Capito? Ero pronto a prendermi la cosa, la colpa, Io non l'avrei fatto apposta. No, era poca, dai. E cosa ti ho detto quel pazzo furioso? Di che ce l'avevi dente? Di che lunghi? No, io volevo vedere un attimino quanto reggeva lo stress, come i frilli già li individuo subito. E l'ho chiamato un attimino e gli ho chiesto, ma scusi, mi toglie una curiosità, perché io sto facendo un certo tipo di studi e volevo sapere, ma la raccolta differenziata qua non l'ha fatta. E che ho detto lui? No, guardi, c'è quella macchina che serve per triccare rifiuti, ma ho messo tutte le cose, ma se trita rifiuti inizia a plastica a quello che è l'organico, gli ho detto, ma cioè, abbia pazienza, perché io sto per finire il corso di studi, volevo avere delucidazione in merito. Se tutto gaggato, no, iniziamo a muovere le gambe in maniera coordinata, parlare balbettando, a un certo punto, dopo un po' che mi ha mollato perché mi ha dato delle spiegazioni così masticate, è ritornato a me, si è presentato, no, perché però ha detto un paio di cagate, si è riallontanato, poi è ritornato, un'ora così è stato. Che parlo? Di più. Perché è matto, te l'ho detto! Non ci credi tu? È un esaurito, mi ha fatto... Ma ti hai messo testa a testa? A me mi ha fatto girare le balle veramente. Sto suonando. Qualcuno ora poco togli con l'autorità, ma tu hai già questo mercato in tanto. Poi abbiamo detto con un collega, abbiamo pranzato un solito sette i panini veloci, così ho piatto, ma è un piatto composto. E poi ci abbiamo preso il caffè, ci hanno appoggiato il banco e ne c'è questo da dietro. Ilaria era di servizio, io ho fatto finta di non conoscerla perché va bene così, no? E io lì a me quando prendevo il caffè, stavo girando il caffè e ho visto questo signore uscire dalla cucina. Prima mi sembrava uscendo dal bagno. E sai, mi conosciamo, che stai parlando? Ma di cosa c'è niente, che? Di nuovo di voi. No, gli ho detto, beh, così da fare una bella donna, magari ti avrei riconosciuto. Esatto, se fossi stata una bella donna, magari ti avrei guardato meglio, comunque altro guardato a te. Esatto. E se mi montava. Che ci lascia io? Mangia voi. Manca lì, e mi siamo vicini, tanto, bocca a bocca, così. Facciamo un bacone, perché non vado a Montenegro, perché non è detto di cacciare. Allora. Ho claro, ho capito. metti già a dieta che stai ingrassando troppo. So poi diventi come Gianni Opiorù. Dici c'è come Gianni Opiorù, lo mi sta troppo una rotonda a capo. Questo blu. Ma per così metti a dieta. Ma mi piace mangiare, come lì. Cazzo, ti mangiavo, capetevi in linea. E tu è perché c'è il fisico così. Puoi mangiare cazzo di piante, però dimagrire si può dimagrire. Il resto che non si può fare. Cazzala. Ma l'altro giorno sei passato in moto. No, non ero io, la moto io l'ho assicurata stasera. Non c'avevo assicurazione. Tutta l'inverno l'ho lasciato a ferro. Cazzo, eppure mi sembra di più lo scooterone, tu ci avevi scommesso. No, no, e poi io sono dimagrito, quindi non puoi dire che sono ingrassato e cosa, perché ho dimagrito un bel. E allora faccio un granchio. Forse ne mi dà di blu lui. Io l'altro giorno alla rotonda sono andato, ma ero con un amico ed ero in macchina. Vabbè, ripeti Antonio, no, Antonio Bombolo. Antonio Bombolo ha bruciato il baracchino, ripeti più già sta girato. C'è Grode che sta tentando di uscire, vediamo un pochino Grode. Antonio è scomparso. Antonio. Antonio Grode. Non riprende, da. Sicuramente sta cercando di mettere a posto il microfono perché sta facendo male. Beh, che mi conta, sa pescare non lo sta. Ah, negativo. Stavo dicendo che quando è sabato sera ho visto un amico tuo a San Marcato, capito? Era la sorella e poi c'è anche il cognato. Sì, ma era la tua fidanzata quella, non amico mio. Mai, mai, maschera, quanto ti voglio bene. Ma poi si è successo che ero lì, no? Stavo prendendo delle cose da tabacchino e lui era lì e io ho fatto "Ebbè Falcone, ciao!" Poi io mi avevo collegato a camminare, poi lui sicuramente non ha riconosciuto la mia modulazione, la mia voce, là. Capito? Poi si è preguato, ha fatto "Ah, chi sei? Gianni Doppio Ru". Ah, vai, non è cazzo. Ehi, detto così, ciao Gianni, capisci, capisci, senti, mi ha riconosciuto, ha detto ciao mascherato, quanto ti voglio bene. A parte il scherzo che ha detto, ciao Gianni, ho più cazzo, proprio il tuo nome, io metto il tuo. Ah, che rimane, se ne ricordava con... Oh, ragazzi, ricorda, sapevo che lo portavi sempre in giro, a voi se ne ricorda. Una volta solo l'ho portato in giro, ma perché ancora non sapevo com'era, cazzo, mi faceva pena, pensavo fosse una persona appena dei problemi e basta. E tu dai, vieni, facciamo un giro insieme, e così lui è venuto tutto ben vestito, maglietta Lacoste, tutto profumato, però malgrado tutto lo tenevano ben bene. Chissà quanti giochi della classe l'ha già fatto in macchina. Oh, sono andato a lavorare la macchina, ti ricordi che prima c'era quel vascone nella portatore dove tutti andavano a lavare la macchina prima della cantonina lì. E mi sono messo a lavare la macchina lì. Cazzo, lui mi è stato detto, posso alzare lo stereo? E alza lo stereo, cazzo, la buccia tutto il volume. E da poi come ti ho incinato, lavando la macchina, l'ho trovato con gli occhi attaccati al parabrezza. Il cazzo, all'anima. Oh, comunque l'ho trovato bene, se me lo trovo anche un peggio. Capito, tutto bello, sempre bello grosso, sai, sempre stato... L'ho trovato bene, capito? Tutti i problemi, giù molto, ho capito. Non ho ammazzato più di uno, poi morivo lì. Beh, ma è invecchiato, non è... Io qua me lo ricordo già grande quando io ero ragazzino, figurati aveva 40 anni fa. Ma secondo me così a occhio ne avrà più di 60, pensi, ne abbia più di 60 quanto ci è arrivato? Penso di sì, penso proprio di sì, perché io avrò avuto penso 17-18 anni, e lui era già grandetto, quindi una decina d'anni più di me ce l'aveva. E c'era sicuramente quella lì, quella signora era la sorella, penso, perché accento romano sia la, quella lì che il marito, penso che sia la, quella signora è la sorella, no? Penso di sì, perché so che vive con la sorella vicino a casa tua, ci siamo messi a fare la casa per stare vicino a te. Prima di venga, e dovrebbe essere, se non mi ricordo male, quella sorella che vive a Sorso, che tratta granito, che fa le, come si chiama, c'è la lavorazione di granito o del genere. Solo ce l'hanno dove c'era l'ex ufficio IVA lì, no? IVA Nicolis, Nicolis, sono loro, sono loro. Fatele anche un bel severo al collo, a quegli operai, io la ci ho visto una valiente per carità, che è uno di quelli che vede quelle piane per mettere al muro. No, però quello che diciamo lì lo so, però c'ha la sorella, c'hanno anche il laboratorio lì all'entrata di Sorso, essendo la marina, se la marina sarà un 200-300 metri prima di entrare a Sorso, c'è un cancello rosso, lì hanno la casa e c'è anche un laboratorio lì. Ma questo non lo sapevo, lo sapevo. E comunque se l'ha fatta vicino a casa tua, mi ha detto me l'ho fatta vicino a mascherato la casa perché lo voglio vicino a me. Ti ricordi che molte volte andava dalla sorella e modulava da lì, usciva da lì, capito? Infatti io lì all'area sono vicini, sono un paio di chilometri, perché io rimango in collina e quindi più o meno per il paese. Mi ha fatto la matavo sempre a casa, questo coglione, spazza tutti i canali. Gli buttava la direttiva con 4 kg qua, non c'era più, si incazzava. Proprio QRM, proprio cazzabattimento a paura. Cazzo è, e poi c'è quel figlio di puttana. E poi si incazzava. E poi là, ciao la notte, non è che tu fa. C'è un peggio di lui. E lui si aveva la fissazione del sesso maschile, ognuno c'ha la sua fissazione, questi malati, c'è quello con la fissazione religiosa, insegna tutti i gigi, c'è l'altro che magari fa finta di suonare la chitarra senza corde, insomma un po' hanno tutti la loro fissazione. Però io torno a dire che ce ne sono più cattivi di lui, non era cattivo, era così come tutti diceva mia, però non era cattivo come posizione. Ah, io la prima volta l'avevo sentito, ho toccato i sincati, ho toccato questo deve essere cattivo, uno che ti mata veramente, e poi lo vedi, manco apre la bocca. Brecca? Chi è Brecca, va? Indovina, chi sa chi è? Io non so, ti sento basso, Santiago 1-2, oh Gianni doppio, forse deve essere anche straniero. È probabile. Vabbè, fra. Ehi, già si può basso, buonasera. Sarà a tutti. Ma che te l'avevi fatto? Ciao fra, perché c'hai sottofondo questo rumore metallico? No, la campana a pecora, boh. Adesso è sparito, vero? No, c'era un altro apparecchio. Dato che ti sente, ma che ne hai fatto? Io ci sono sempre, capito? La radio è sempre accesa sia qua che in macchina e ti ascolto sempre, anche dall'altra parte. Quindi non ti preoccupare, sono sempre presente, anche se non mi senti. È una recidiva. Capito, sono sempre sui punti, sono da tutte le parti, ti ascolto sempre. Capito, bene, mi è stato a posto questo accidente di microfono, è stato 6 mesi che sono comprati un microfono nuovo. No, io non è conto, ricostruisco le differenze, capito? Questo è costruito. Ah, buono, una bella modulazione. Capito, lì, l'ho progettato io, ma questa è a parte. Avanti, ciao, buonasera. No, è abbastanza, adesso va bene. È abbastanza chiara come voce, ma anche la struttura esterna fai oppure solo l'interno? Tutto, cartone, forbici, colla, cucitrice. Poi va bene, sarai come l'amico Giulio Nollaro, che si rifà di legno ai microfoni. Fa legname, si fa, si costruisce tutto il circuito lui, si fa tutto il circuito e poi lo inserisce nella, diciamo, nella struttura in legno che fa i microfoni, ha fatto le BB più 5, cose, tutto dei prototipi in legno. No, come dice qualcuno, compro pappelle di pecora, fare cose del po' le faccio anche di fare il secco. Ma veramente quelli di giro sono bellissimi. Solo che li fa per pochi, l'ha fatta lui e mi pare un altro amico, non è che li faccia a tutti. Però sono molto belli. Quando avevo una stazione base che era tutta fatta in legno, di quelle americane, gliel'avevo detto, sì, non me lo faceva, mi ha detto no, già, non c'ho tempo. Se no l'avrei abbinata. E infatti, comunque non vi siete accorti che nel frattempo ho cambiato anche il microfono. C'è anche Sandro di Polatore, davanti Sandro. Buona estate, hermano. Ciao Sandro, ben sentito, cordialità, in compagnia di Mascherados e di, dell'amico Gianfranco. Vai per chi vuoi. Ok, dai, comunque buonasera circolare a tutti quanti, però sono belli QRM, questo trabicolo non fa altro che ricevere QRM. Kappa, lo so, è difficile, amici. Sì, beh, però è tutto una questione di orecchio, io adesso non ce l'ho abituato. Lo so. L'altro perché non lo usi il Galaxy? Come? Aspetta, perché non usi il Galaxy? Ah, no, l'ho dato un attimino a Claudio. A quanto pare non me ne vuole più ritornare. Lo immaginavo. Ha detto che se lo tiene lui. È bello. È un bel apparecchio quello lì. Almeno con quello non disturbi, dai. Sì, vabbè, dai, adesso tiriamo avanti così, dai. Fino a quando non entra in zucca. Kappa, mi fai un po' abituare poi. Cominci con le apparecchiature. Gianfranco, avanti, per i saluti a sé. Sì, come era? Ah, non bloccava. Saluto l'amico di Porto Torres, buonasera. Non so se mi senta, perché io sto andando a bassissima potenza, quindi con antenna non accordata. Niente, rilascio questo addizio, mi stai dicendo che questa è migliore, così so. Mi piace più, è una cosa più bella, più potente, più corposa. Va bene veramente. Potente. Più potente così. Ecco, adesso è più potente. No, prima no. Sarebbe più forte, però prima più corposa. Però è meglio il primo passaggio, il secondo è più strano, perché siamo troppo vicini. Lo fai con il peso alle radio basse, ma è chiare. Ti sei dimenticato la cosa più importante, senza ecco. Già, questa è molto più potente, l'ho dato dal compressore. Ma io lo posso escludere, ecco. Ma io mi distingo proprio per quello, perché amo la radio dell'eco. Al contrario di te, siamo due... le parti opposte. Alessandro, guarda. Sì, ok, dai, rimango in quei ricchi su un attimino, perché sto sfruttando la presa Cilli Sigari dell'alimentatore, perché mi sto aggiornando tom. E anche io lo metto il tonton lì, lo metto di lì nella presenza dei sigari quando devo usarlo in macchina, così lo faccio caricare e lo uso carico senza filo. gamba. Guarda, adesso ce l'avevo per po' che era parcheggiato fermo, solo che tra me ho detto o lo attacco per dire c'ho la fresa per il computer oppure lo devo attaccare in macchina. Poi gira e rigiro, ho detto, aspetta, ma se c'ho un alimentatore che c'ha la presa vicina, c'ha la presa a cena i sigari, capito? E quindi lo sto un attimino facendo caricare, tutto lì, dai, rimango in quel righis. Lo stai aggiornando, ma tu hai quello con la scheda estraibile, con la memory card estraibile? Si conferma, però per l'aggiornamento delle mappe dovrei metterlo tramite connessione, tramite internet o già. No, io per quello che ho preso io, il tonton, c'è la interna, se non si può togliere la memory card, capito? C'è internamente, quindi non so se si può salvare la giornata. Sì, sì, devi scaricare il programma su internet, sul computer. Ti scarichi il programma, poi attacchi a lui e in automatico te la aggiorna. Cavagava. Beh, mi viene che lo faccia perché l'altro giorno non mi leggeva l'ospedale blu sull'Italia. Addirittura. Sì, vabbè, ma ogni tanto conviene fare l'aggiornamento, capito? Mentre quelle tutte le rotature nuove me le segnala. Ho capito. Vabbè, dai, fai girare e rimango un attimo nei tuoi rigs. Cavagava, maschera. Aspetta, continua perché se mi sto incasinando con le memorie di questo apparecchio, mi sono incasinato e ne ho cacciato diverse, le sto riprogrammando, aspetta, continuate voi. Appagliofa! Sì, ho toccato qualcosa, no, riesco a sbloccarlo, no, ti volevo dire, non è che... Pesca cosa così fare cose, è che l'eco ti distorce la voce, cioè c'è la fortuna di avere una voce abbastanza chiara e la rovini con l'eco, quindi è per quello, poi è fastidioso, è molto migliore, a parte la distinzione, no? del coso, però è chiaramente meglio sempre, cioè più chiara, più così. Così ti piace a te? Sì, anche più forte, anche più amplificata, eccetera, tutto quello che fare, però questo ecco perché fa mal di testa essenzialmente, capito? Non è una radio da fare discorsi lunghi, eccetera, va bene per chi è in apo caso e così via, non ha capito, non è chiaro. Ho preso un contatto e non mi ricordo più qual era, ma ce ne immagini, e adesso come faccio? Ecco, voi, Gianfranco. Ti hanno risposto indirettamente. No, non ti ricevo così, capito? Sono apparati, così sì, che non ti tagliano, aspetta, wow. Sembra un americano che stia mangiando un hot dog. Ma io non lo uso tanto forte. Adesso vabbè, l'ho fatto per scherzare, ma non lo uso tanto forte. Poi chi ha fatto la pernacchia lo campare di casa sua, chi so. Ma chi è rimasto? Fabrizio si è allontanato, capito? Perché ho distratto, sto distrando il microfono perché mi si è stirato leggermente il coso dello spinotto, non vorrei che si portasse il cavo. Mi manca un coppi guaina. Ma e questo pronto? No, non lo costruisco io. Ah, non li costruisci tutti allora? No, i nuovi me li compro per vedere se sono meglio o peggio del mio, no? E se no lo faccio e da pronto. Lo faccio per confrontarmi. Esatto. Ma questa è debole quindi la radio, no? Cioè è debole, poi vabbè che in AM non significa niente perché non si utilizzava più mai. Anche un 27 lo utilizzano gli italiani, ma poi fuori utilizzano tutti le FM. È molto molto molto meglio. Andare. E anche io vi stavo seguendo la soggiorno. La frequenza monitorizzasse, intanto vi sento. Sì, ma non c'è solo quella. Quella lì è solo, diciamo, per le comunicazioni lì. Facciamo un pasticcio, sentire dei rumori, ma sono. Non è che sto facendo, cercando di fare una guaina. Questo microfono. No, si sta qua, il tutto. E niente. Tutto lì. Ma vabbè, questo è va bene così, ascolto, tipo di attrici. Però vabbè, un po', come dicevo quello, l'importante che funziona. Facendo il computer adesso per vedere se c'è qualche cosa di nuovo, perché sono andato da Fusera a comprare un'antenna VU già un mese fa, l'ho ordinata, mi ha detto che arrivava, una volta durata 50 voci e non è mai arrivata. Che antenna hai ordinato? No, la vuoi di quelle che usi in macchina, dai, di quelle piccoline, come ce l'aveva Tole, dai, per non andare tanto lontano, come ce l'aveva Tole, dai, in macchina. Come quella lì, tanto per fare ascolto mi serviva, capito? La metto nella base magnetica e faccio ascolto con quella. Ma cata, se vuoi 30 anni, no, che arrivi lui, conviene da internet, qua, 3 giorni ce l'ha. Infatti, quanto costava? Vale 20 euro, credo. Oppure ti prendi lo stilo solo e spendi anche di meno, un 10 euro finisci, quello della CD, no? Attacchi quella lì e attacchi l'altra. Cambi lo stile. Vanno bene. Sopra costruisci anche qui. Io ne ho una che è autocostruita, va bene per due, per un tanto, non so se... come si dice, del multiple, quindi se non vuoi aspettare, perché questi poi fanno un'altra cosa, mi le ordinano e dagli stessi posti e aspettano che le arrivino, però se non ne prendono almeno una decina, non le prendono, aspettano perché abbiamo qualcuno, insomma per il tempo è fatto. Ma è più facile che ti dica non ne trattiamo, ecco, ma se ti capita che ce ne hanno, ok, se no ordinare non fanno né da uno né dall'altro, tanto ci mettono 30 anni. Cosa sta succedendo? Non so se sono io, mi sta apparendo il volume, aspetta, prova a guardare uno, due, tre. Sì, adesso va bene. Non so se fossi io, forse fosse da te, però un attimo se ne stava andando il volume. Sì, probabilmente mi ha allontanato il microfono perché è dinamico, capito? Come la lontana, guarda, se lo fa. Sì, lo fa abbastanza repentinamente. Che microfono è? È un Magnum. Io ho un Magnum 980 in questo momento. Ma non mi direte di quelli che spendono quelle cifre per prendere quegli apparati costosissimi dalla Magno, ne ho detto uno, solo perché ci hanno messo lucette azzurre, credo che costi 500 euro, una cosa che c'è da andare e metterlo su per piedi e calpestarlo di brutto davanti a loro. Ah, vanno bene, ma che questo cosa lo so? È possibile che non ti abbia sentito la parola, però va bene. Se sto importante. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda, 1, 2, 3, prova. No, adesso va bene, ma non ho capito se il problema è tuo o mio. Perché io c'avevo lo square, cioè, per evitare di nuovo il fondo, quindi non mi sono adesso, l'ho tolto. Vediamo un po' se l'ho fatto. No, non so, il mio già lo fa quando ti allontani, lo fai, non ti preoccupare. Ragazzi, sì, vi saluto che sono da mangiare, secondo me li prendo dopo. Ciao Fra, ciao Gianni, e ci sentiamo alle prossime, avanti Fra. Ok, va bene Fabio, ma tu non stai scendendo, non ti vedo più, va bene, non è che ti stia spazzando spesso, perché è poco tempo, però non t'ho più visto, neanche in discesa. Ma io guarda, scendo ogni sera, capite? Ogni sera ci sono, se non coincidono gli orari, ma io ci sono ogni sera. No, allora no, scendo a tardi, io scendo presto alle, perlomeno quando c'era l'altro orario, alle 5 me ne salivo subito, 5, 6, adesso magari può rimanere anche più tardi quando ci riusciamo. E così, vabbè, se ti vedo già ti tiro un colpo con la macchina. Alla macchina solo, io. Sì, anche a te, se ti vedo in strada, in questo poi... No, non ti ho visto bene, faccio anche la telefonata. Dice, cazzo, ma non l'avevi visto, si sta giubilando il teo. Mi ha fatto un cotto, ha portato, si è messo sotto un attimo, poi gli ho ripassato sopra. Sì, ma solo perché voleva vedere se aveva davvero investito qualcosa, non c'è creduta, insomma, mi è sembrato aver investito qualcuno, quindi è tornato indietro, ci ha fatto sotto, tanto più fine, e poi così. Ma non l'ha ammazzata Bovara, c'è una donna giovane pure, va appena portato il bambino all'asilo. Tanto già c'è gente strana in giro, per carità. Tutti fuori di testa, tra una cosa e l'altra. Era appena uscito dal vigliologo, scotto di pipa, stava dicendo ai vicini che non era lui, che l'aveva visitato la travaggia. Oh, aspetta che l'avete fatto qua prima. Mi è scappato di... No, ma guarda quanto sono disponibile. Ma hai sentito un quadro di modulazione adesso, per caso? Non da parte mia, da parte di Vittorio. Oh, vabbè, del corrispondente. Gianni qua è sempre lo stesso, prova già, io lo ascolto sempre lo stesso, la stessa tonalità, la stessa intensità. Boh, io non lo so, guarda, io provo a allontanarmi, guarda, mi allontano, sicuramente sparisce. No, no, non è sparito, sto cercando di capire se dipende da me o che cosa, ma tutto dipende da me, che strano. Sembra che si stacchi, ma neanche, non è neanche l'antenna, è proprio il modulatore, cioè il ricevitore. Io me lo facevo con un Galaxy, cosa del genere. Vabbè là, vi lascio là, ci sentiamo amiche, alla prossima pizzare, là, che vado a mangiare. Ciao Franco, ciao Gianni, ci sentiamo, avanti già. Ciao Fabrizio, mi hai sentito? Ciao anche Gianfranco, dai, mi ero davanti anche io 5 minuti, devo andare nel QTH, piccolo, e poi magari riprendo, dai, sentiamo dopo Gianfranco. Ok, quando ti vai dai tanti saluti a parte mia, qui là, Tremonti, Berlusconi, Bassani, insomma tutti quelli carissimi amici. Ascolta una cosa, parla bene di Mario Monti perché gli ha dato un sacco di soldi in più, Che ci pensa lui se ce l'ha più? Sì, ma proprio perché vincete a tutti quello. Mi avvami. Vabbè, immagino di essere contento Fabri, che il gasolio sta sempre diminuendo. Ah, ma non so che hai guardato, cazzo, che c'è da pigliare e andare, ci vuole un colpo di strato, questi qua piano piano ci stanno chiacchiando, capito? Tutto lì la loro cosa da fare, ci stanno portando alla fame e torneremo alla fame della guerra, capito? Adesso piano piano ci stiamo distruggendo di quello che abbiamo messo da parte, ma non c'era più quello lì, però sarà un casino veramente. Tanto anche quello lì ce l'abbiamo tutti lì. Non lo so io come va a finire, e così pazienza, non so tanto la salute, peccato che non c'è neanche quella. E vabbè, tu puoi lamentare che poi la tua amministrazione ti ha tanti soldi, quindi non è scelto in crisi. Ciao Fra, la salute alla Pirri con tutti questi pensieri. Sì, la cosa è cosa, il microfono che mi dice un po' l'audio. Forse perché l'ho appoggiato. Boh. Vabbè. Certo che non manca da fare in queste situazioni radio, sempre qualche problema c'è, no? Che è allontanato, è andato nel posto piccolo. Attenzione, a corte di rompe, scappa. Claudio, mi sente? Toccava il Barbiero, mi ascolti? Sì, aspetta un secondo, sono a telefono. Ah, scappa. Stasera anche a col Gianfranco, se non mi sbaglio. Sì, buonasera. Non ho capito chi eri perché c'è un problema sull'apparato che sto cercando di risolvere. Praticamente ogni tanto manca, cioè non manca, ma diminuisce l'audio. Stavo cercando di capire un po' da cosa dipendeva. Guarda, avrei qualche problemino. Comunque qua, come ricezione siamo su scala, stai arrivando forte qua. Mi sento benissimo. Sì, la trasmissione dovrebbe andare bene. C'è una ricezione che a volte si abbassa di colpo, vedo il segnale, ma non c'è. Sto cercando di capire cosa poteva essere. Non vorrei che fosse il condensatore interno che sta partendo. Speriamo di no. Molte volte quei condensatori sono maledetti, sono. Succede. Ma quando mi ascolti, mi ascolti bene, sì? Sì, quando non è normale tutto quanto, sì, 9:20, la radio 5, più che comprensibile. Sto usando un Alphayette Zeus, nuova generazione, un microfono suo e tutto suo. Trovate normale. Sono entrato, eccomi qua. Claudio. C'ho l'altra antenna. Mi sentite, sì? Sì, Claudio, sotto mi è sembrato che c'è qualcuno che ti sta chiamando, ma è molto basso. No, io non sento perché sto usando quella l'antenna a filare. Non so se mi sentite. Ma io ti sento benissimo, qua. Sì, è uno che sta dando un'attenzione. Forse non lo senti. No, anch'io non avendo un'antenna regolare, diciamo, non lo sento molto forte. Chi chiama Claudio? Avanti se mi sente. Io non sento niente, c'ho QRM a zero e sono con l'antenna fidale per i 10 metri. Sto così per far un po' scaldare questa radio, non so se mi sentite va bene, se no cambio. Sì, io ti sento, Claudio, la sensazione continua a chiamarti, però a me non mi riceve, quindi non ci posso far nulla, però io ti sento bene. Chi è che sta chiamando, io non lo sento. Chi è che chiama Claudio? Io sono con un'antenna direttiva, diciamo, proiezione orizzontale, quindi non sento bene chi è. Ah, dovrebbe essere Bonova, Gennaro da Bonova. Gennaro, ma io a quest'ora cambio sempre antenna, per rilassarmi un po', per avere basso QRM, per fare questo locale, capito? Quindi se mi stai sentendo anche con questa antenna, io riesco a ascoltarti basso, ma riesco a ascoltarti. Chicago 2 arriva qua. Sì, sì, ti ascolto, basso, ma ti ascolto. Ma dipende da me perché ho cambiato antenna, capito? Uso la radio perché c'ho, se cambia antenna c'ho, guarda, guarda a 9, quindi ti sentirei ancora peggio, quindi è meglio sentirti così. Comunque va bene, la radio 5 è perfetta, ti arrivano benissimo la manovra. Grazie. quel baracchino riconosciamo bene, riconosciamo. Siamo con Claudio, siamo dei vecchi CP e una quarantina d'anni di esperienza abbiamo. Riprendi Claudio, buonasera. Ciao. Gianni Capello, buonasera, in compagnia di Antonio Bombolo, Gianfranco da Sassari e Gennaro da Bonov. Gennaro, se io ti faccio sentire il mio di Alla 48, tu continui a dire che il tuo è una bomba. Se io ti faccio sentire il mio, ti spaventi, capito? Il mio è uguale a quello che c'hai tu, con la regolazione dell'eco, con la regolazione dei vape, con la schiava corte, col bip. L'ho pagato nel 2004, non adesso, nel 2004 500 euro, capito? Quindi lo uso poco perché a casa io non lo posso usare, fa un sacco di casino, perché c'è anche il parascolta, quindi non va bene, fa un sacco di casino, quindi lo uso poco, però uguale a quello, tu stai uscendo benissimo. Il tuo baracchino è una bomba, va benissimo alla grande, però non lo devi toccare, hai capito? Comprensibilissima, caro Gennaro, e ti ascolto benissimo. questa sì, modulata colpa nuova, sì. Ok, ringrazio tutto Gianfranco, con la buonasera a Capri 2 che rimette il cambio, avanti. Sì, buonasera, facciamo Alfa Bravo, operatore Gianfranco. Bravo, non mi sento ovviamente, come ho detto prima, a causa condizioni precarie di lavoro su questa gamma. Ok, rimango in Fedex perché sto facendo una piccola riparazione, a uno spinato. Ti prendi Claudio. Questo è Gianni Capperu e Kappa. Gianni, ti sta chiamando Bombo. Ti riesco ad ascoltarlo, ma non... Non lo ascolto, proprio, ho tutti però, se io guarda, con un antennino da nulla dalla macchina, se è piatto l'apparecchio, lo abbiamo modulato e lui mi sente alla grande. Da qui non lo so, forse perché l'antenna è bassa, non l'ho mai alzata, perché non ho neanche il tempo, è la Puglia. Però non ho nulla, con un antennino da nulla, ma come dico la salita di Usi, lo ascolto nella macchina. Cerca tu, Capo, non mi senti adesso? Adesso sto spingendo, ma è tanto ecco il segnale. Diciamo, Claudio. Sì, Antonio, adesso è aumentato, ma evidentemente siete in diverse posizioni, capito? Dimmi, Gennaro. Thank you. la presenza magari. Sassari, cambio. Claudio, attacca dei Dallas. Volevo attaccare questo, faglielo ascoltare adesso. Questo è l'Ara 48 con la VV 131, vai. 9.30, Gennaro, hai visto Gennaro, come stocca qua, hai visto che stocca? Sì, sì, 9.20 con la 48, Gennaro, ma c'è di alto 9.5 con l'HF, quindi questi hanno un altro smitter, perciò sta arrivando molto molto più forte. Sta arrivando molto più forte, senti gemello del tuo, eh? Il cat, lo senti il cat? Ti ascolto bene, Gennaro, ti ascolto magnificamente bene, sei una bomba qua, Sassari, vai bene, vai bene. Ok, aspetta un attimo, facciamo girare, dai, chi c'è? Allora, c'era già nei capri due, Sandro, Antonio Bombolo, poi chi c'è? Qualche altro? Mi pare di aver sentito anche Gianni? No, non c'è altro nessuno. Allora, Antonio Bombolo, riprendi, vai, fai girare. Bombolo non risponde, Sandro Tigre, riprendi, fai girare per Gianni Capri 2. Ehi, siete tutti in cappotte, c'è un Capri 2 avanti. Ok, già io già sto ascoltando, meraviglioso, meraviglioso. La lancetta qua è incollata proprio sul rosso dello smettere, e sarà oltre qui a riguardo a 9.30 la parecchio, però è qua ancora fuori del 9.30, quindi è una bomba qua, è una bomba io. Dammi conferma, cioè, te lo sto immaginando, dimmi se ce l'avevo più over preciso anche. Allora, questa radio io l'ho comprata nel 2004 da Gigi Vulcano, ed è un Alan 48S modificato, praticamente c'è tutto quello che serve per farlo rullare, dai. E ce l'ho a 2,5 watt, sta pilotando un BV 131 con circa 200 watt in antenna. Picco, perché c'è un picco di modulazione allucinante. Ed è un semplice Alan 48, però modificato, capito? Uguale a quello che sta usando Gennaro. Gemello di quello di Gennaro, ed è una potenza allucinante. Va molto bene, ti dico che anche come ricezione è ottimo, eh. Ottimo per la truppa. Gennaro, a te il microfono, cambio. Andate in guardia. La grande, qui stai toccando, la grande arriva più forte, però non ti preoccupare, Gennaro, qui stai toccando quasi il 9, stai toccando, diciamo la produzione della radio è perfetta, la radio 5, perfetta, appena amplificata, è bellissimo. Solo che Claudio è un tiro di schioppo, però gli apparecchi sembrano che siano, diciamo, la stessa, la modulazione è la stessa, è la stessa, con la voce sembra la potenza, una voce come quella che c'ha Claudio, è preciso identico, l'apparecchio proprio si vede che di radio sono precisi, appunto, ripeto, avevo comprato uno negli 80 apparati, ne avevo comprato uno, l'avevo usato due volte, poi l'avevo venduto, l'avevo regalato al mio cognato e niente, ne avevo anche il cavo con quella scheda per aumentare i canali, però niente, da quel sono buoni, perché non abbiamo fatto nessuna modifica, però questo cavo e buoni è fatto cioè alla grande, a me, diciamo, le apparecchiature, anche quando c'è un altro, mi piace che lo senta forte, che siano affidabili, io sono appassionato anche delle robe che si comprano gli altri, quindi mi sento bene, troppo bello, la riprendi. Te l'ho detto che ce l'avevo uguale e tu non mi senti e allora te l'ho dovuto fare sentire, capisci, a me. Ehi Gennà, questa è uguale alla tua, capito? È un cut della Midland alla 48 cut, è stata fatta in Sicilia anche questa, l'ho comprata da Piero Lumacone tramite Gigi Vulcano, capito? E vanno molto bene, anch'io l'ho pagata quella cifra lì, però nel 2004, capito? Non l'ho pagata adesso, l'ho comprata nel 2004, la usavo prima in macchina quando viaggiavo, poi l'ho tolta e adesso ce l'ho a casa. Però fa molto casino ad usarla, quindi non fa, capito? Gennaro, non fa. Vediamo un po' se è rientrato Antonio Bombolo. Ma è qua, Claudio. Vai, riprendi, vai per Sandro di Porto Torres. Ho sentito anche Gianni, doppio Roma. Non so se c'era anche Fabrizio, boh, non lo so, perché poi io mi sono allontanato e ho dovuto cambiare radio. Allora ho perso un po' di tempo, vai per Sandro Antonio. Gappa, gappa. No, guarda che è simile. Graziato, aspetta un attimo, tra. Sandro. Come tra? Un attimino che facendo con la pensionina. Ehi, vediamo forse c'è Gianni doppio Roma. Gianni, ci sei? Nai, nanna, addormentados. Caro Gennaro, queste radio costano troppo. Sì, a San Romeo. Pinocchetto il Moro da Budesol, vediamo un po' se c'è ancora. Attenzione Pinocchetto il Moro, ascolti lo Sparviero, cambio. Io non lo sento più, forse non sta trasmettendo Gennaro. Gennaro, sì, aspetta. Sì, Gennaro, io lo posso usare normale oppure turbo. Capito? Anche tu le passi la calamita per farlo diventare turbo? Il tuo non esce normale, il mio esce anche normale, va normale, capito? Se io voglio eliminare tutto il baravan senza toccare niente, praticamente lo spengo, poi lo riaccendo e lui diventa normale, diventa un semplice alla 48 con la potenza della radio, mentre invece le passo la calamita sopra il display e si attiva il turbo. Una semplice calamita, una calamita normale, no? Tu te l'appoggi al display e si inserisce un relay che mette in funzione tutto il circuito di preamplificazione, capito? Non so se il tuo è come questo, Gennaro, non lo conosco. conosco, io non l'ho visto, ho capito. Se come questo devi spegnerlo, poi lo riaccendi, e lui è normale. Questo si disinserisce, quando io lo spengo, si disinserisce tutto il circuito di preamplificazione, no? E diventa un 48 normale. Poi lo accendo e le passo la calamita sul display e lui diventa turbo. Da così è normale, lo senti? Così è normale, non c'è niente, l'ho spento e l'ho riacceso, lo senti? Ecco, così è normale, vedi? Così è normalissimo, l'ho spento e l'ho riacceso, adesso le passo la calamita, guarda, eh. Hola, vedi? E lui torna com'era, senza toccare nessun pulsante, capito? Capito Gennaro, è uguale al mio, dove invece c'è lo squelch, io c'ho la potenza, capito? È uguale al mio Gennaro, è fatto dalla stessa persona questo, eh. È gemello del mio. E vabbè, sarà la stessa casa, dai. Questo è fatto da un'altra persona, ma comunque arriva sempre dalla Sicilia, quindi si scambiano magari le idee, si scambiano i progetti, quindi è sicuramente lo stesso progettista, perché ha le stesse posizioni del tuo. L'elicottero io non ce l'ho, c'ho il doppio modulatore con la scheda colt, il bip, poi c'ho la modifica dei canali alti e bassi, la modifica dei watt e l'eco, capito? Sì, è cambiato, ma era meglio prima, mi piace più prima. Sì, lascialo così che va bene. Aspetta un attimo che mi ha chiamato Antonio, dimmi Antonio. Ma, volevo dire che a Gennaro io ho detto Santiago 2. Ti ascolta Antonio Gomolo, Santiago 2, Gennaro, con un'antenna piccolina, capito? Un'antenna piccolina riesce ad arrivare a casa sua, Santiago 2. Non passo però, Come Gennà? Dove si trova lui questo, diciamo, ma qua a Sassari, si trova a Sassari, però non ha un'antenna sul tetto, ha un'antenna a base magnetica, ti ascolta Santiago 2. Ho capito, è di radio e non ci sa. Il radio lo senti Anto? È radio molto bassa. Molto bassa, mi dovrei mettere le cuffie per sentire lui. Ti ascolta basso di radio, però riesci ad ascoltarti, vuol dire che stai arrivando molto bene. Vediamo se c'è Sandro di Porto Torres, altrimenti riprendi tu Gianni Capri 2. Sandro? Gianni? Ok, grazie, grazie. Riprendo, ne approfitto. Per salutarvi che è già ora che devo chiudere, che io alle 6 sono anche di cioccolati che fanno domani. E è stato un piacere, veramente affascinato da quelle linee. E vi saluto cordialmente a te, a Gennaro, a Antonio Bombolo, a Sandro, a Pinucenzo, sono i colleghi, non lo so. E passo il corretti perché è proprio. Non ce la faccio più, sono da presto al stato qua, ma ogni volta che mi sento mi affaccio a salutarvi. Ok, detto questo rilancio a Gennaro e poi farà arrivare lui. E riprendi tu Gennaro. Che casino che fa Porto Torres e Mores. Lo so, comunque lo so, Porto Torres e Gennà, ma Gianni K2 tutti a Camuros. Gianni K2 va tutti a Camuros. Comunque, di nuovo ti saluto a tutti i circolari e riprendi Claudio. K, d'accordo. Ciao Gianni K2, dai. Ben ascoltato e ci sentiamo alle prossimine. Ok. Adesso io cambio radio Gennaro, se no qua faccio troppo casino, capito? Cambio di nuovo radio, vado con l'altra radio che non fa chiasso. Comunque sappi che questa è gemella della tua, è uguale alla tua, non cambia assolutamente niente, capito? Anche se tu l'hai presa da Delta Mike, io l'ho presa da Roma Core, però sono tutte e due siciliani e sono tutte e due dei bravissimi tecnici, capito Gennaro? Capito Claudio, capito. E cambio radio, sennò qua faccio casino, passo con l'altra radio. Antonio, riprendi? Ciao Gianni K2, buonanotte, grazie delle due chiacchiere e ci sentiamo alle prossimine. Avanti Antonio Bombolo. Ma dai, che se non mi sente, io invece posso, sono molto molto bene a K2. Perché se non mi sente gli mando i saluti. Eccomi qua Gennaro, mi ascolti? Ho dovuto cambiare perché l'altra radio fa troppo chiasso e Gennaro fa troppo, si bomba troppo e disturbo qua a casa, capito? Con questa mi arrivi 925, però questa è una radio professionale, quindi un po' più selettivo come Smitter, capito? Però 95 da Bonorva a Gennaro non è poco e non ti ascolta nessuno a Sassari con questo segnale. Di mattina io sono a lavoro, io sono libero di pomeriggio, capito? Fa però posso fare un salto a Bonorba, non ci sono problemi, non ci sono problemi, Gennaro. Appunto, ci mettiamo d'accordo, faccio un salto a Bonorba, fine settimana, Gennaro. Capito? Fine settimana faccio un salto da te, me la dai e te la metto a posto, e poi te la restituisco, tanto io faccio servizio anche a Tiesi, capito? Non ci sono problemi, quindi non faccio molta strada. Come dico cosa vuoi fare, va bene, cosa vuoi fare, quanto la vuoi vendere, e io te la vendo, non ci sono problemi. Ah, una fesseria da, la sappiamo fare, non c'è problema, ce li ho già quei finali, ho capito, quella monta un 1969 oppure un 2078, ci sono tutte e due, ce li ho tutte e due, non c'è problema. Arriva molto bene anche Sandro, la porta c'è una zona molto aperta. chiacchiere, ci sentiamo domani, Gennaro, ok? Gennaro, anche a te famiglia, dai, ci sentiamo domani e poi ci scambiamo per vederci in verticale, d'accordo?